387. Sformato di cavolfiore. Prendete una palla di cavolfiore e ammesso che questa sia, per esempio, del peso di grammi 350, netta dal gambo e dalle foglie, adoperate per condimento le seguenti dosi all'incirca: latte decilitri 3, uova numero 3, burro grammi 60, parmigiano grattato grammi 30. Date mezza cottura nell'acqua alla palla del cavolfiore e dopo tagliatela a pezzetti, poneteli a soffriggere con la metà del detto burro, salandoli. E quando l'avranno tirato, finite di cuocerli con un poco del detto latte. Poi potete lasciarli così o passarli dall'ostaccio. Con la rimanenza del burro e del latte e con una cucchiaiata di farina non colma, fate una balsamella e aggiungetela al composto insieme con le uova, prima frullate e col parmigiano. Cuocetelo in uno stampo liscio, come lo sformato di fagiolini, e servitelo caldo. Questa quantità può bastare per 6 persone.